Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona domenica da Magazine 24, benvenuti al nostro appuntamento con i settimanali. Però questa mattina non voglio cominciare da un settimanale, voglio cominciare dalla raccolta di un settimanale molto importante e molto particolare. L'inserto culturale del Sole 24 Ore, appunto la domenica, esce, come sanno in molti, moltissimi appassionati che lo seguono da anni, esce tutte le domeniche e ha una serie di articoli dedicati ai vari aspetti della cultura che vanno dal cinema alla letteratura, alle tendenze, alla scienza, insomma. Ecco, perché ve ne voglio parlare proprio questa mattina? Perché da questa mattina potete trovare in edicola, insieme naturalmente al Sole 24 Ore e all'inserto domenicale, anche un CD-ROM. In questo CD-ROM abbiamo raccolto tutti gli articoli del 2010 proprio dell'inserto domenicale del Sole 24 Ore. Lo presentiamo come un anno di arte e cultura, perché questi sono i temi più forti che vengono abitualmente trattati dal nostro inserto culturale. Ci sono tutti gli articoli naturalmente pubblicati sul nostro supplemento nel corso del 2010 e tra l'altro, trattandosi di un CD-ROM, è anche possibile sia fare delle ricerche per autore, per testo, per parola chiave, oppure proprio sfogliare al computer gli inserti via via, numero per numero. Gli appassionati lo sanno benissimo, lo dico per chi non fosse un acquirente abituale di questo inserto culturale, con il dicembre dello scorso anno il formato è stato completamente rinnovato, c'è una grafica completamente nuova e apprezzando appunto che si può apprezzare nello sfogliare i vari formati, le varie puntate che trovate su questo CD-ROM. Archivio Domenica 2010, in vendita da oggi con il Sole 24 Ore, naturalmente resterà in edicola per un po' di giorni, sempre in offerta con il nostro quotidiano. Come forse sapete, la prima puntata del nuovo formato grafico, della rivoluzione grafica del domenicale, era stata intitolata all'Unità d'Italia. In questo modo si voleva un po' porre l'accento su una celebrazione che, alla quale ci avviciniamo, cioè i 150 anni dell'Unità d'Italia. Tra l'altro il 17 di marzo appunto si celebrerà questa festa, si celebrerà solo quest'anno però, la festa dell'Unità d'Italia. Donna Moderna, sul suo numero in edicola questa settimana, ha provato a lanciare un sondaggio tra le lettrici e i lettori per chiedere cosa pensassero appunto della festa nazionale dell'Unità d'Italia del 17 di marzo. Hanno chiesto: sei d'accordo con la celebrazione del giorno dell'Unità d'Italia? Per il 48% delle lettrici che hanno scelto di rispondere, sono quasi 200, sì, bisogna recuperare il valore dell'unità. Addirittura il 28% si è spinto più oltre e ha detto sì, anzi dobbiamo festeggiarla tutti gli anni e non solo quest'anno. Come sapete questa è una festa molto particolare, la celebreremo un anno solo, questo almeno è stato disposto. Solo per un 24% complessivo, suddiviso esattamente a metà, ci sono due no. Un no perché ormai siamo cittadini del mondo e quindi questa appartenenza nazionale non è più sentita, oppure un no, quello che conta oggi è il federalismo e quindi non c'è meno interesse per l'Unità d'Italia. Questo è il risultato, però direi che la maggioranza a favore del sentimento nazionale è una maggioranza anche in questo piccolo campione decisamente schiacciante, ripeto, su Donna Moderna di questa settimana. Allora, visto che parliamo di Unità d'Italia, di Nazionale e così via, una segnalazione per un avvenimento a cui andiamo incontro nella prossima settimana. Comincia il Sei Nazioni di Rugby. L'evento sportivo dedica due belle pagine Famiglia Cristiana. Tra l'altro vi leggo qualcuno dei passaggi, le due pagine sono curate da Ivo Romano. Dice: Sei Nazioni, dodicesimo capitolo. capitolo, storia breve ma intensa, perché l'Italia naturalmente nel rugby è un po' il vaso di coccio tra i vasi di ferro e ha avuto pochi successi e tanti benefici. Si parte comunque in casa con l'Irlanda il 5 febbraio, come vi dicevo. Il bicchiere mezzo vuoto per la partecipazione a questa manifestazione è quello di chi vorrebbe vedere l'Italia primeggiare, ma il fatto è che qui bisogna affrontare la crema del rugby europeo. Il bicchiere mezzo pieno è quello di chi guarda oltre il campo e si specchia nella crescita del movimento ovale, in crescita finanziaria che, come spiega appunto Ivo Romano, non fa mai male, ma anche crescita di appassionati, il traino quindi che il Sei Nazioni può avere per le vocazioni. Nel 2000, anno della missione dell'Italia nel Sei Nazioni, i tesserati del rugby erano circa 30.000 e ora si supera invece la quota dei 66.000. Quindi i praticanti sono in lievitazione, gli appassionati pure, e la gente apprezza anche al di là dei risultati. Purtroppo, come scrive lo stesso Ivo Romano, non siamo ancora all'altezza delle grandi nazioni europee dal punto di vista del rugby, quindi abbiamo purtroppo subito 21 sconfitte nelle ultime 23 partite. Ma il popolo dei tifosi, il popolo del rugby, resta al fianco degli azzurri. Ci sono stati 80.000 spettatori a San Siro per la sfida con gli All Blacks, il che rappresenta un autentico miracolo, ma la squadra italiana poi gira la penisola, va all'estero, trova sempre calore, sempre spalti molto molto affollati. Per darvi qualche riferimento rispetto ai nostri contendenti, vi posso dire da una tabella che accompagna queste due pagine su Famiglia Cristiana che in Italia appunto abbiamo 66.176 tesserati, in Inghilterra se ne contano più di 2.500.000, e quindi è fatale che appunto poi da una partecipazione così massiccia emergano più migliori individualità, migliori squadre. In Francia ci sono 313.000 tesserati, in Irlanda 153.000, e poi via via andando su sugli stati più piccoli, la Scozia e il Galles, scendiamo a livelli inferiori numericamente, ma che andrebbero poi rapportati alla popolazione complessiva. In Scozia sono 38.000 i tesserati, nel Galles sono 50.000. Non è da trascurare il fatto che tra i tesserati italiani ci sono appunto 66.000 complessivi, 61.000 sono uomini, ma 4.700 sono donne, quindi una presenza femminile anche importante pure in uno sport così decisamente maschile. Ora, visto l'orario e vista la giornata appunto della domenica, io immagino che molti di coloro che ci stanno ascoltando stiano prendendo un caffè, e questo quindi mi dà l'occasione per dire loro che fanno molto bene, perché pare che il caffè funzioni benissimo per stimolare l'intelligenza. L'ho letto su Focus, ve lo segnalo. Focus è già in edicola con il suo numero datato febbraio, e appunto all'interno di questo numero trovate una serie di consigli per potenziare l'intelligenza. Niente vitamine o pillole stimolanti, scrive Margherita Zannoni su Focus. Per migliorare le prestazioni del cervello ci vuole altro, a partire dalla ginnastica, non ginnastica mentale, qui si parla proprio di ginnastica vera e propria, cioè di attività fisica. E ci sono appunto dei luoghi comuni che vanno sfatati, ad esempio che per far lavorare il cervello le parole crociate o la matematica arricchiscano la mente. In realtà questo tipo di attività allena sì le capacità cerebrali, ma in quel campo, quindi non ha poi un effetto complessivo. Ci sono anche però delle buone notizie. Secondo le ultime ricerche, il nostro patrimonio di 100 miliardi di neuroni che abbiamo nel cervello non è destinato a esaurirsi con l'invecchiamento, perché ogni giorno nascono circa 250.000 nuovi neuroni, quindi siamo in grado comunque di apprendere. Qual è il segreto? È che questi neuroni bisogna metterli a lavorare su qualcosa di nuovo, perché si spiega proprio su Focus. Esistono dei metodi efficaci per favorire questo processo di nascita di nuovi neuroni, dare più sprint alla nostra mente. Quindi non solo bere il caffè, ma anche impegnarsi in un'attività nuova, nuove sfide intellettuali. C'è una neurobiologa che in una università americana ha scoperto che questi neuroni cerebrali nuovi finiscono per morire in 2 settimane se il soggetto non viene stimolato a imparare qualcosa di nuovo. Allora, per mantenerli invece in vita, per farli crescere, bisogna concentrarsi su un nuovo compito, magari abbastanza complesso da richiedere uno sforzo mentale e una partecipazione emotiva. Ad esempio, cercare di imparare una lingua nuova, iscriversi anche a un corso di ballo, oppure viaggiare, cambiare lavoro, cambiare abitudini, sono tutti compiti, spiega Margherita Zannoni sempre, che mettendoci alla prova possono potenziare il cervello. Oltre alle nuove sfide, poi, c'è un sistema per garantirsi un'intelligenza brillante, scremando decenni di ricerche, la rivista Scientific American, che è un po' una bibbia del settore, ha identificato 6 fattori che aiutano la mente. Spiega appunto Margherita Zannoni, molti di questi fattori sono tanto semplici quanto sorprendenti. Uno, ve l'ho già rivelato, è il caffè, quindi il caffè fa bene, tiene in qualche modo in allenamento l'intelligenza. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Allora, vi ho fatto una promessa, come si fa a potenziare l'intelligenza, a mantenere in allenamento il cervello. Da dove sto traendo questi consigli? Da Focus, che è già in edicola con il numero di febbraio. Uno di questi consigli l'ho già rivelato, è il caffè. Spiego meglio, perché non vorrei poi neanche incentivare un abuso di caffè, che come è noto poi può avere altri tipi di effetti sgradevoli. Però questo scrive Focus: le poche sostanze stimolanti che davvero funzionano per il cervello presentano abitualmente un rischio non irrilevante, la tossicità. Non è il caso del caffè, perché la caffeina stimola il sistema nervoso aumentando la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, il ritmo respiratorio, quindi incrementa lo stato di allerta. In uno studio si è osservato che 2 tazzine di caffè migliorano la memoria a breve termine e migliorano i tempi di reazione. Quindi si è riscontrato un aumento dell'attivazione nelle regioni cerebrali coinvolte proprio nell'attenzione. La caffeina inoltre può proteggere dal declino della memoria che accompagna l'invecchiamento. Ovviamente, questo mi sembra un consiglio molto importante, a patto di non eccedere, perché come sappiamo, in dosi elevate invece il caffè può provocare ansia, irritabilità, insonnia, tremori, insomma bisogna assumerne. Certo, fa bene assunto in una dose normale, senza esagerare. Gli altri consigli allora per tenere in allenamento l'intelligenza e per potenziarla sono nell'ordine l'attività fisica. Hanno riscontrato che ad esempio nei topi da laboratorio che corrono nella ruota girevole, forse chi di voi ha in casa ad esempio un criceto ha presente questo tipo di esercizio, la nascita di nuovi neuroni nell'area del cervello che controlla memoria e orientamento spaziale è almeno il doppio rispetto agli animali poco attivi. Quindi basta che questi topi da laboratorio corrano sulla ruota per migliorare le prestazioni anche cerebrali. Ricerche sugli uomini hanno peraltro confermato che l'esercizio fisico migliora le funzioni esecutive del cervello, quali ad esempio la pianificazione, l'organizzazione e anche il famoso multitasking, come si usa dire da un po' di tempo a questa parte, cioè la capacità di svolgere più compiti contemporaneamente. Poi, come sappiamo, l'attività fisica fa bene anche all'umore, alla qualità del sonno, quindi diminuisce a lungo andare anche il rischio di andare incontro a un decadimento, addirittura ai fenomeni di demenza senile. Poi c'è la dieta, al secondo posto, appena dopo l'attività fisica. I cibi migliori per il cervello sono noci, mirtilli e spinaci. Evitare di mangiare troppo aiuta, qui si dice mangiare poco può aiutare, perché la restrizione calorica, se evita appunto i grassi saturi, quelli di origine animale, finisce per avere degli effetti benefici. Il dato qui è più dettagliato, ma vi rimando poi a Focus. Passo agli altri consigli. Uno è quasi sorprendente e credo potrebbe generare anche qualche attrito in famiglia: i videogiochi. I videogiochi, come scrive anche Focus, per anni sono stati accusati di far male al cervello. Però non ci sarebbe nulla di più falso, perché addirittura invece possono aumentare la materia grigia. Io mi permetterei qua una piccolissima parentesi, a patto di non rimbambirsi davanti al videogioco medesimo. Però pare che un utilizzo appunto dei videogiochi sia utile, sia stimolante per il cervello. Spiego meglio leggendo sempre dalla rivista. Un gruppo di ricercatori di un'associazione americana ha esaminato il cervello di un gruppo di giovani ai quali è stato chiesto di dedicare 30 minuti al giorno per 3 mesi a un videogioco molto noto, che è Tetris. È quello, per chi non l'avesse mai visto, in cui bisogna incastrare delle figure geometriche senza lasciare spazi, muovendole appunto via via che cadono. I risultati sono stati sorprendenti, perché pare che giocare regolarmente a Tetris aumenti lo spessore della corteccia cerebrale e potenzi la funzionalità di diverse regioni del cervello. Una settimana di videogiochi sarebbe sufficiente anche ad aumentare le abilità di percezione visiva anche in chi abitualmente non gioca. Ad esempio, questi videogiochi sono stati sperimentati anche con i chirurghi, perché si è visto in alcuni centri medici che i chirurghi che spendono almeno 3 ore la settimana giocando ai videogiochi compiono meno errori rispetto ai medici che non giocano. Attenzione però, anche qui come col caffè, a non esagerare. I videogiochi naturalmente possono dare dipendenza, e questo rischio tra l'altro risulta 2 volte maggiore negli uomini rispetto alle donne. Quindi le signore possono esagerare un po' di più ai videogiochi, anche se abitualmente, come è noto, sono più gli uomini ad apprezzare i videogiochi. Infine, la musica e la meditazione sono gli ultimi 2 consigli per potenziare le attività cerebrali. La musica, perché naturalmente studiare musica ma anche ascoltare musica fanno bene al cervello, e nei musicisti tra l'altro si è verificato che corteccia motoria e cervelletto sono più sviluppati proprio come una conseguenza dell'allenamento a coordinare i movimenti fini che servono appunto a suonare uno strumento. Cresce tra l'altro anche una parte del cervello che si chiama corpo calloso, e che sta a indicare una migliore comunicazione tra i 2 emisferi. Vi segnalo anche, l'emisfero musicale è quello destro, però per praticare musica ci vuole una coordinazione tra i 2 emisferi. Infatti, per capire il linguaggio musicale si usa l'emisfero sinistro, ma tutti questi dettagli poi li potete trovare meglio su Focus. Infine, la meditazione praticata con regolarità può aumentare già dopo 3 mesi le capacità di attenzione e di concentrazione, quindi migliorando la nostra prestazione. Non so se è un risultato di questi miglioramenti sull'intelligenza, però un'invenzione che potrebbe sicuramente aiutarci e rendere più semplice la nostra vita è quella del telecomando unico, perché oramai le nostre case sono abbastanza invase dai telecomandi. Le regioni poi d'Italia che sono passate al digitale terrestre si sono ritrovate un'ulteriore dote di telecomandi. Su altro consumo, come sapete, diffuso appunto per gli abbonati, c'è proprio una guida all'acquisto dei telecomandi unici, che da qualche tempo hanno cominciato a fare capolino tra gli scaffali. Perché ve la segnalo? Perché davvero sembra, traendo una conclusione per carità molto molto banale, che se non si raggiunge una certa spesa iniziale sia poi difficile veder funzionare in modo soddisfacente questi telecomandi unici. Tra l'altro non sono quelli, diciamo, più soddisfacenti dal punto di vista del funzionamento, non sono però semplici da usare. Questo lo avviso appunto anche altro consumo. Modelli grandi e piccoli non sono tutti intuitivi e semplici da usare. Si va naturalmente dai 10 ai 200 euro, i più cari di fatto poi risultano anche i più comodi, sono modelli che consentono di impostare più attività e quindi di ridurre la quantità dei telecomandi che finiscono in giro per casa, tra televisore, videoregistratore, decoder del digitale terrestre, altri decoder, videogiochi e quant'altro poi ci serve per far funzionare, stando seduti in poltrona, i nostri apparecchi. Attenzione, perché avete sempre altro consumo, non tutti i modelli di telecomando unico quindi possono poi imparare tutte le funzioni dei nostri telecomandi di casa. Allora ci ritroveremo con un telecomando in più, ma dovremmo comunque mantenere quelli vecchi per poter fare delle cose che il nuovo non riesce a fare. Questo è uno dei molti consigli che trovate su Altro Consumo, l'ultimo numero in distribuzione. E con con questa segnalazione concludiamo la nostra puntata di Magazine 24. Io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio come sempre Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Grazie anche a Paolo Corleone, anche questa mattina, anche domenica mattina con me in regia. Vi segnalo come sempre sul nostro sito www.radio24.it la registrazione completa di questa e di tutte le puntate di Magazine 24, ma soprattutto tutte le informazioni su Radio 24, le registrazioni dei nostri programmi e i consigli per seguirci al meglio. Grazie e buona settimana a tutti.